Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera a tutte. Quella che sta per andare in onda sarà la nostra 302esima trasmissione. Qui in studio siamo Caterina, che vi sta parlando, e Stefania. Questa sera, ciao. Questa sera abbiamo deciso di parlare, presentare il libro della Lettera all'Amazzone di Marina Svetajeva, edito da Editori Internazionali Riuniti, che secondo noi ha fatto un'operazione di tutto rispetto. Per farci aiutare, perché sicuramente è molto più esperta di noi, abbiamo chiesto la collaborazione di Monica, che salutiamo e che è qui in studio con noi. Buonasera a tutte. Ma ci sarà anche la voce di Annalisa Comes, che ha scritto la prefazione, che però sarà in differita, e poi magari nel proseguo della trasmissione capirete anche perché e cosa significa in differita. Come al solito, prima di entrare nel vivo della trasmissione, ascoltiamo il brano musicale dal titolo La storia de un amor. Vero, anche se stavo leggendo in una lingua che era diversa da quella originale della canzone, e la cantante è Zaz. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba y el calor que me brindaba. Y era amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual. Me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba y el calor que me brindaba. Sofrer más. Marina Svetaeva, grande e sfortunata poetessa russa, nacque a Mosca l'8 ottobre 1892 da il papà, che era filologo e storico dell'arte, e la madre invece, pianista di talento, si sforzò di trasmettere alla figlia l'amore per la musica e la pittura, e la passione della bambina si riversava sulla poesia, tanto che cominciò a scrivere versi a 6 anni e pubblicò la sua prima raccolta di poesie, album serale, nel 1910 a soli 18 anni. Dopo gli studi ginnasiali, Marina andò da sola a Parigi per frequentare le lezioni di letteratura francese alla Sorbona. Giovanissima, a soli 17 anni, incontra Sergei Efron, di un anno più grande, e si sposarono. Dotata di un carattere forte, indipendente e straordinariamente romantica, la giovane poetessa si taglia i capelli, fuma, viaggia da sola e vive delle storie d'amore. La primogenita Ariadna nasce il 18 settembre del 1912. Marina continua a scrivere e a pubblicare versi, riscuotendo giudizi contrastanti da parte della critica. Durante la rivoluzione di febbraio del 1917, la Svetaeva è a Mosca e in aprile nasce la seconda figlia, Irina. A Mosca fu testimone della sanguinosa guerra civile, la rivoluzione bolscevica di ottobre. A soli 25 anni Marina è sola con 2 figlie, il marito ufficiale è in battaglia, e in una Mosca in preda ad una carestia terribile. La poetessa, che appartiene ad una classe sociale, diremmo, privilegiata, non ha mai lavorato, non riesce a conservare il posto di lavoro e durante l'inverno del 1920 è costretta a lasciare la figlia più piccola, Irina, in un orfanotrofio, dove morirà per denutrizione. Quando la guerra civile finisce, la Svetaeva decide di raggiungere il marito a Praga, passando per Berlino. La vita letteraria a Berlino era allora molto vivace e la poetessa aveva ampie possibilità di lavoro. Nonostante la propria fuga dall'Unione Sovietica, la sua più famosa raccolta di versi fu pubblicata in patria. Nei primi anni la politica dei bolscevici, in campo letterario, era ancora abbastanza liberale da consentire ad autori come la Svetaeva di essere pubblicati anche oltre frontiera. Nel 22 raggiunse il marito a Praga, dove visse fino al 25. In quel periodo nacque il terzo figlio, Mur. Nell'autunno del 29 partirà per Parigi, dove trascorse i successivi 10 anni. Poco per volta l'atmosfera intorno a lei cambiò. Il marito era passato apertamente dalla parte dei soviet e, rimpatriato, prese parte attivamente alla politica attiva, convincendo anche la figlia a seguirlo. All'inizio del 30 Marina si trova completamente sola a Parigi. Elena Izvolskaya, scusate la pronuncia, non conosciamo il russo purtroppo è una nostra pecca ma solo il russo, tutte le altre lingue, esatto, le sappiamo tutte. Ricorda così la Svetaeva nei suoi anni a Parigi: la mia Marina, quella che lavorava e scriveva e raccoglieva la legna e nutriva la famiglia con le briciole, lavava per terra, faceva il bucato, cuciva con le sue dita esili una volta, adesso ingrossate dal lavoro. Ricordo bene quelle dita, ingiallite dal fumo. Reggevano la teiera, la casseruola, la padella, la gavetta, il ferro da stiro. Infilavano il filo nella cruna, accendevano la stufa. Eppure quelle stesse dita guidavano la penna o la matita sulla carta, sul tavolo della cucina, dal quale tutto era stato tolto in fretta. Seduta a quel tavolo, Marina scriveva versi, prosa, buttava giù le brutte copie di interi poemi. Nel giugno del 1939 si imbarcò per tornare in Russia, ma non conosceva ancora il peggio. Suo marito Efron aveva cominciato a collaborare con il GPU, partecipando addirittura ad un omicidio. Quello che la Svetaeva aveva dovuto soffrire in Francia sembrò presto una sciocchezza al confronto di ciò che l'aspettava in Unione Sovietica. Le furono procurati dei lavori di traduzione, ma dove abitare, cosa mangiare, restava un problema. Nell'agosto del 1939 sua figlia venne arrestata e deportata nel Gulag. Anche suo marito Efron venne arrestato e fucilato perché riconosciuto nemico del popolo. Nel settembre del 1940 scrisse sul quaderno di appunti: «Già da un anno cerco con gli occhi un gancio, da un anno misuro la morte». tutto è mostruoso e terribile. Ingoiare pasticche è disgustoso, buttarsi da una finestra è abominevole ed ho un'innata ripugnanza per l'acqua. Non voglio spaventare nessuno da morta. Mi sembra di aver già paura da morta di me stessa. Non voglio morire, voglio non essere, assurdo. L'estate successiva cominciò l'invasione tedesca e la Svetajeva venne evacuata con suo figlio Mur, rimanendo completamente abbandonata. Il denaro che aveva bastava appena per due pagnotte. La domenica del 31 agosto del 1941, rimasta da sola a casa, salì su una sedia, rigirò una corda attorno alla trave e si impiccò. Lasciò un biglietto che venne sequestrato dalla milizia e mai ritrovato. Nessuno andò ai suoi funerali, svoltisi tre giorni dopo, e non si conosce il punto preciso dove fu sepolta. Certo, non ci ha avuto una vita assolutamente facile, poverina. Quindi io direi adesso, siccome il libro che è stato ripubblicato ha una prefazione molto interessante curata da Annalisa Comes, io direi di ascoltare il contributo che ci ha inviato e che ha fatto in una maniera molto singolare, perché praticamente è come se facesse parlare proprio la Svetajeva. Quindi direi ascoltiamo il contributo e poi noi facciamo le nostre considerazioni sul libro, sulla Svetajeva, su alcuni principi che emergono. Ok, aspettiamo Annalisa Comes. Vorrei prima di tutto ringraziare per questa opportunità di parlare, anche se brevemente, di un libro straordinario di un'autrice davvero straordinaria, Lettera all'Amazzone di Marina Svetajeva. Grazie allora alla casa editrice Editori Internazionali Riuniti, grazie a Onda Rossa, Radio Onda Rossa, che mi presta la voce sua. Indagare, parlare del concetto d'amore e di esilio di Marina Svetajeva è come parlare della sua stessa poesia, della materia e anche della voce. È da questa che la Svetajeva parte, come lei stessa scrive nel saggio Il poeta e il tempo, testo scritto nel 1932, paragrafo 4. A chi do ascolto. Cito: J'entends des voix, disait-elle, qui me commande. Do ascolto a qualcosa che risuona in me, in modo costante ma non uniforme, ora dandomi indicazioni, ora dandomi ordini. Quando indica, discuto, quando ingiunge, ubbidisco. Ciò che indica è la via sonora alla poesia. Sento il motivo, non sento le parole. Cerco le parole. Più a destra, più a sinistra, più su, più giù, più svelto, più lento. Allungare, troncare. Ecco le precise indicazioni del mio udito, oppure di qualcosa al mio udito. Tutto il mio scrivere è un continuo prestare orecchio. Fine della citazione. Ecco, Marina Svetajeva è lei stessa a indicarci la via sonora delle sue poesie, della sua poesia, non gli argomenti, neppure il tema. È la materia sonora che si compone dei rumori della vita, con la V minuscola, che diventa vita, con la V maiuscola. Dove l'amore è declinato nell'amare, ne ha il battito stesso, è movimento, esilio, allontanamento, avvicinamento, costituzionale, ancorché occasionale. Dove il beat, il tran tran quotidiano, che divora il tempo necessario all'essenziale, come ricorda la figlia Alia, viene trasceso, mai eluso. È il rumore dei passi, il rumore delle valigie fatte e disfatte, delle ruote dei treni, della pagina accartocciata, salvata, distesa. Nella prosa Indizi terrestri, appunti redatti a Mosca nel 1919, aveva infatti scritto, cito: io non sono innamorata di me stessa, sono innamorata di questa occupazione, l'ascolto. Se un altro mi permettesse di ascoltare come io lascio che mi si ascolti, se si concedesse a me come io mi concedo, allo stesso modo io ascolterei l'altro. Io non penso, ascolto. Poi cerco un'esatta incarnazione nella parola. Il risultato è la glaciale corazza di una formula sotto la quale soltanto cuore. Io non pongo l'orecchio, io metto l'orecchio. Proprio come un medico sul petto, e quanto spesso a un piccolo colpo risponde un vuoto sordo. Fine della citazione. E nella lettera del 19 aprile 1938 Ariadna Berg scrive: quanto a pronunciarmi a proposito degli incontri o dei non incontri, delle lettere o del silenzio, in primo luogo gli eventi mi hanno ormai superata, in secondo non si deve ascoltare me sempre in queste cose. Intenzionalmente e quasi malintenziosamente ho danneggiato me stessa, se questo si può chiamare un danno. Mettevo alla prova l'altro, il grado del suo attaccamento. Mettevo alla prova me stessa, il grado del mio distacco, cioè isolamento. Accumulavo montagne e versavo mari tra costui e me. E alla fin fine, molto rapidamente, perdevo. Ascoltare me non si deve. Si può quando la cosa è ormai perduta. Io, in amore, sono stata capace di una cosa sola, di soffrire selvaggiamente e di cantare. Neppure di aspettare, come l'Akhmatova, soltanto cantavo e aspettavo. Di una cosa in generale non sono stata capace, di vivere. Ma poiché voi mettete in ordine la vita, io sempre, qualsiasi vita, l'ho messa in disordine, o non quella altrui, soltanto la mia, con l'altro. Però di amare non sono stata capace, come nessuno, e nessuno l'ha saputo. E ormai non lo saprà, non per niente, non mi tingo i capelli. Fine della citazione. Ecco, rileggiamo. Io in amore sono stata capace di una cosa sola, di soffrire selvaggiamente e di cantare. Ecco, le sue poesie, le sue parole, le sue lettere, les lettres et la lettre, ce lo dimostrano, lo raccontano e lo cantano, ancora adesso, ancora oggi. Vorrei concludere questo mio breve intervento con una sua poesia tratta dalla raccolta Dopo la Russia del 17 maggio 1923. Una poesia in cui con una preveggenza coraggiosa e lucida e una straordinaria leggera gravità, la Tsvetaeva riesce a contenere inizio e fine. La Sibilla al bambino. Vieni vicino al mio petto, più stretto. Nascere piccolo e cadere nel tempo, dal non dove, non terra, così rovinosa discesa, da spirito in polvere. Piangi, bambino, per te, per tutti. Nascere e cadere nel corpo. Piangi, piccolo, per il futuro e ancora nascere e cadere nel giorno, nel tempo, sepolcro. Dov'è l'incendio dei suoi prodigi? Piangi, bambino, venuto al mondo. Dov'è la vena dei suoi tesori? Piangi, bambino, venuto al sangue, al quando, al conto. Ma ti alzerai. Ciò che chiamano morte è cadere nell'alto. Ma tu vedrai, le palpebre chiuse sono venire alla luce. Dall'oggi nel sempre. La morte, bambino, è ritorno. La morte è andare a ritroso, per l'aria, a nuoto, a scesa, indietro, in dentro, in eterno. Allora ringraziamo Annalisa di questo bellissimo contributo che ci ha mandato, e prima di passare lo stacchetto musicale di riposo dopo queste intense considerazioni e poi introdurre il nostro pensiero, vorremmo ricordare il testo allora di Marina Tsvetaeva, Lettera all'Amazzone, l'amore fra due donne, con prefazione di R. Di Luca, introduzione di Annalisa Comes, traduzione di Angelo Pavia, pubblicato dagli Editori Internazionali Riuniti, e raccoglie sia la Lettera all'Amazzone che la postilla delle lettere a Vishniak, che nell'idea dell'autrice avrebbero dovuto essere congiuntamente pubblicate in un volume. Facciamo adesso questo piccolo stacco musicale. Chiara Galeazzo con i Mille Passi. Un passo me ne vado per sempre, un passo grande, un passo così importante. Due passi senza guardarti, due passi avanti, due passi per dimenticarti. Tre passi verso le stelle fino a toccarle, tre passi per avvicinarle. Quando tornerai? No, che non tornerai. Quando tornerai? Lontano da qui sarai. Quando tornerai? Un giorno, forse mai. Quando tornerai? Ho fatto un passo ormai. Quando tornerai? Così lontani. Quando sai, tornerai? Un giorno, forse mai. Quattro passi voglio ricordarti, rivedo i nostri sguardi. Quattro passi forse è già tardi. Cinque passi senza cadere, continuo a camminare. Cinque passi per perdonare. Mille passi senza voltarmi, non voglio più contarli. Mille passi per guardare avanti. Quando tornerai? No, che non tornerà. Quando tornerai? Lontano da qui sarà. Quando tornerai? Forse mai. Quando tornerai? Un passo via da quando noi. Quando tornerai? Siamo lontani ormai. Quando tornerai? Un giorno, forse mai. Quando tornerai? Quando tornerai? Un passo via da quando noi. Tornerai? Siamo lontani ormai. Quando tornerai? Un giorno, forse mai. Quando tornerai? No, che non tornerà. Quando tornerai? Lontano da qui sarai. Quando tornerai? Un giorno, forse mai. Un giorno, forse mai. Allora, a questo punto io direi di fare una breve ricostruzione proprio di tutto quanto, nel senso che la Svetaeva scrisse lettera all'Amazzone dopo la lettura di Pensieri all'Amazzone di Natalie Clifford Barney, come una sorta di risposta o una esternazione di pensieri che quella lettura le aveva suscitato. Provò anche, purtroppo invano, a farle pubblicare. Solo un altro piccolo inciso: Natalie Clifford Barney è stata una scrittrice e poetessa statunitense che si trasferì in Francia e per quasi 60 anni animò un salotto letterario internazionale allestito nella sua abitazione Rue Jacob 20 a Parigi, salotto che sarebbe stato frequentato da alcuni fra i più importanti esponenti del modernismo, fra cui anche Marina Svetaeva. La poetessa scrisse lettere all'Amazzone che però furono considerate troppo scabrose, e stiamo parlando, vi ricordo, degli anni 30 più o meno, quindi il suo desiderio rimase tale fino a quando nel 1981 in Italia, a cura di Serena Vitale, ci fu una prima pubblicazione. Oggi questa nuova uscita ci spinge a parlarne per due motivi fondamentali. Il primo riguarda l'interessantissima prefazione di Annalisa Comes che abbiamo appena ascoltato, mentre la seconda ha avuto come incipit il fatto che noi del CLR siamo lesbiche, che nelle nostre trasmissioni cerchiamo di parlare di lesbismo, e quindi questa sera ci interessa mettere a fuoco, riflettere ed evidenziare tutte le argomentazioni che la Svetaeva propone nelle sue lettere che riguardano il lesbismo, anche se la parola lesbica non compare mai negli scritti della Svetaeva. Ma anche questo è stato uno dei tanti aspetti sui quali ci siamo fermate a ragionare e dai quali siamo poi partite per prendere la decisione di proporla qui in radio. Al di là di quelle che saranno le osservazioni specifiche che noi faremo sul testo, ricordo pubblicato in questa nuova edizione più di 20 anni dopo quella precedente, abbiamo intenzione di utilizzare proprio gli scritti della Svetaeva ed usarli come filtro. Per riattraversare un po' la storia dei salotti lesbici francesi degli anni 30, da una parte, e dall'altra per interrogarci su come alcune posizioni, alcune matrici nel tempo si siano prolungate, protratte, ripresentate, modificate, variate, ma qualunque sia stata la forma nella quale queste posizioni si siano manifestate, comunque hanno dato luogo a discussioni che hanno reso fertile il dibattito lesbico. Ma questo testo è anche una buona occasione per riavvicinarsi alla Svetaeva, che comunque è una donna ed un personaggio femminile fondamentale per la sua singolarità. Abbiamo sentito Stefania che ci ha letto la sua biografia, insomma non è che ha avuto una vita molto semplice. Basti pensare alle sue vicissitudini e al fatto che oggi le sue opere sono pubblicate un po' ovunque, ma da viva ha sempre faticato tantissimo per veder pubblicare i suoi lavori. Allora, se ricordo bene, Monica, proporrei però di partire dall'inizio facendo questa considerazione. Questo libro apparentemente sembra offrire un pensiero sull'amore tale da sembrare estremamente datato. Diciamo che si colloca perfettamente nel suo tempo, perché il pensiero delle ruolizzazioni è molto forte e presente. Si parla di rapporto fra madre e figlia, come a significare che la relazione fra due donne non può reggere senza questo specifico modello. Questo concetto non è prettamente ed esclusivamente della Svetaeva, anzi era molto radicato e interiorizzato a quei tempi. Basti pensare, non so, per esempio, a tutte le realizzazioni che ha portato in scena Redfield Fall, no? Certo, in effetti la Svetaeva, come insomma molte donne, molti nei salotti lesbici di questi anni, delineano spesso un rapporto fra donne che hanno fra di loro una certa differenza di età, anche notevole. Nella lettera alla Mazzone vi fa riferimento con due termini specifici, che sono quella della la giovane e la grande. È soprattutto quest'ultima che si sente madre delle giovani, secondo la Svetaeva, di cui via via si innamora o dalle quali viene amata. Uh-huh. Ed è una figura in un certo senso triste, se possiamo dire così, perché è destinata ad essere abbandonata dalle giovani e a restare da sola. Anch'io utilizzerò la voce della scrittrice. Dice a questo proposito l'autrice quanto segue: l'altra, penso anche a lei, l'isola, l'eterna isolata, la madre che perde una dopo l'altra tutte le sue figlie, che le perde per l'eternità, poiché non soltanto non verranno a mettere i loro figli tra le sue braccia, ma scorgendola dietro l'angolo di una strada si faranno furtivamente il segno della croce sulla bionda testa. Niobe, dalla discendenza femminile, distrutta da quell'altro cacciatore, altrettanto feroce, infallibile, perché cieco. L'eterna perdente, all'unico gioco veramente importante che ci sia. La svergognata, l'esiliata, la maledetta, bianca visione senza corpo e di cui riconosciamo la razza soltanto per quello sguardo che conosce, riconosce, soppeso ineffabile, dove il banditore si unisce all'idolatra, colui che presta suppegno, il giocatore di scacchi al beatificato, sguardo a diversi strati di profondità e nel quale l'ultimo strato si trova sempre prima del penultimo, senza fine, senza fondo. Tutti gli aggettivi vi si perdono perché è un abisso. sguardo ineffabile, sbarrato, ritratto, sottolineato, cancellato dal sorriso invernale della rinuncia. Da giovani le si riconosce dal sorriso, da vecchie le si disconosce dal sorriso. Giovani o vecchie sono quelle che sembrano più anima, tutte le altre che sembrano corpo non lo sono, non ne sono fatte o lo sono di passaggio. Lei vive su un'isola, lei è un'isola, isola dall'infinita colonia d'anime. Chissà se in questo momento, nelle Indie, lì, ai confini del mondo, una giovane donna annoda i suoi capelli bruni. E il motivo di questo destino di abbandono ha come controparte nella giovane il desiderio di un figlio senza un uomo, nella speranza di una completa fusione con se stessa. Cito ancora: e quell'altro grido, voi non avete mai sentito nemmeno quello? Come vorrei un figlio senza uomo, sospiro sorridente di ragazza, sospiro ingenuo di zitella e anche a volte sospiro disperato di una donna, smarrito, deluso, come ne vorrei uno, soltanto mio. Ed ecco la giovane, sorridente, che non vuole estranei nel suo corpo, che non vuole nulla da lui né di suo, che vuole soltanto da me, incontrata all'angolo della strada, un'altra me, una lei, da cui non ha nulla da temere, da cui non deve difendersi, farle male, del male, come non potrà, almeno essendo giovane, far male a se stessa. Ma non c'è nessun nemico, perché si tratta ancora di me, sempre di me, un'altra me che mi ami e mi capisca, due me che mi amino, una me esterna e che io possa finalmente amare, la fusione più completa e senza amore. Allora, cioè, a questo punto correggimi se sbaglio, vediamo se ho, se ho capito bene. Sì. La Svetaeva, affrontando il problema dell'amore e dichiarando che nel concreto l'amore stesso non esiste in quanto è sicuramente destinato a morire, pone l'accento sulla diversità tra l'amore tra due donne e l'amore tra un uomo e una donna, introducendo la questione del prodotto, no? Lettera all'Amazzone è un testo che in realtà però non parla di un amore indirizzato ad un qualsivoglia soggetto sessuato, ma parla dell'amore in generale, del concetto dell'amore, del sentimento dell'amore. Amore che è una ricerca impossibile di normalizzazione, amore che la Svetaeva cerca disperatamente però nell'amore lesbico, amore dal quale non riesce ad approdare alla legittimazione perché afferma che dovrebbe essere possibile avere un figlio. In questo testo la poetessa fa dire: un amore per una donna è impossibile perché è una follia, perché non può chiedere un figlio nemmeno con un miracolo, perché è improduttivo. E torniamo quindi a questo punto alla questione del prodotto. Ce la puoi spiegare magari in una maniera un po' meno confusionaria di quello che ho fatto io? No, non c'è nessuna confusione. Voglio solo leggere e poi dico un po' come io lo sento e come l'ho letto. Certo. Tu hai riassunto perfettamente un brano molto significativo in cui lei dice: si può chiedere alla Vergine un figlio dall'amante, si può chiedere alla Vergine un figlio da un uomo anziano, non si chiede alla Vergine un figlio da una donna. Si può chiedere un'iniquità, si può chiedere un miracolo, non si chiede una follia, che era proprio il passaggio appunto che diceva. E prosegue: no, amore dal quale il figlio è semplicemente escluso, l'assenza del figlio, state di cose implicito, tutto tranne il figlio. A volte la più grande la sorprende, sorprende su di sé lo sguardo di lei come se trascrivesse, ricalcasse i suoi tratti su un infinito più circoscritto. Non le manca nulla, ma troppo, tutto le resta da dare. Vorrei amarti piccola, proprio come una donna dice: vorrei amarti piccolo, ancora te, ancora una te, più mia, una te partorita da me. Non è mai altro che il disperato desiderio di una, della più giovane, della più lei, la più grande. Lei non ha bisogno di figlio, ha la sua amica per la sua maternità. Sei la mia amica, sei il mio sole, sei mia figlia. È questo, diciamo, che in fondo rende impossibile l'eternità dell'amore fra donne, secondo la Svetaeva. Come avevamo detto, ma anche la spia, potremmo dire, di un modello un po' più generale di amore, di coppia, no? Di relazione, che non riesce a pensarsi totalmente fuori dagli schemi eterosessuali. Certo. È il ruolo di prima e seconda genitrice che appare follia, perché il pensiero resta dentro la generazione come sola finalità e valore della coppia. E di conseguenza due donne, se non sono e non possono essere genitrici, possono solo relazionarsi come madre e figlia. Però se il pensiero, diciamo, occidentale ha normato almeno come tabù la generazione fra padre e figlia, anche se qua, vero, ci sarebbe tanto da dire, molto da dire, però non è proprio in grado di contenere nelle sue categorie, no, di conoscenza, di concepire l'eventuale generazione fra madre e figlia, ma soprattutto non lo può fare senza decostruire dalle fondamenta quelle categorie. Cioè non si può nemmeno pensare fuori dalle finalità della messa al mondo di un prodotto. E infatti, per essere ancora una volta debitrici delle parole dell'autrice, lei dice esattamente quanto segue: entità troppo integra, parlando dell'amore fra due donne, unità troppo una, due faranno uno, no, due fanno tre, e questo è il pensiero sessuale. Strada che non porta da nessuna parte, impasse, torniamo sui nostri passi. Il figlio, l'unico punto attaccabile che rovina tutta la causa, l'unico che la salva, la causa del mondo, quella dell'uomo e del mondo. Oh, lo so, a volte tutto ciò dura fino alla morte, visione commovente e spaventosa. Quindi, non rientrando in quei ruoli prestabiliti, il rapporto è destinato ad essere infranto, no? Si parla di morte, essere infranto in genere dalla giovane che torna all'uomo. Quindi il destino, il desiderio, diciamo, della maternità è la normalità. Dunque il rapporto deve interrompersi, perché in questo caso è molto chiaro la Svetaeva: se non si può concepire e si continua il rapporto, allora diviene depravazione. Usa propriamente questa espressione. Certo, viene, questa espressione è stata usata proprio esplicitamente. Sì. No? Io... Vabbè, diciamo che allora il concetto presentato dalla Svetaeva dell'amore è legato alla complessità di quella società, no? Noi oggi abbiamo un concetto di amore che è diverso, no? Perché la comunità lesbica è attraversata da uno sguardo abbastanza critico rispetto alle ruralizzazioni. Inoltre oggi è più tangibile sicuramente un punto di vista positivo legato all'essere lesbica che nella Svetaeva, ma anche nelle altre, non si rivede proprio. Non è tanto campata in aria l'affermazione dell'inesorabilità della fine dell'amore che la poetessa fa, se andiamo a vedere, come del resto lei stessa propone, le storie delle grandi storie d'amore della letteratura, nelle quali comunque i protagonisti e le protagoniste muoiono sempre, certo. No? A partire da Romeo e Giulietta in poi. Ci vuoi erudire rispetto a questo, Monica? Sì, per piacere. La tua citazione è perfetta. Ancora una volta partiamo dal brano. Questo grido voi non l'avete dunque mai almeno sentito, se potessi avere un figlio da te, e questa gelosia feroce e unica al mondo, implacabile perché incurabile, incomparabile all'altra normale, incomparabile persino alla gelosia materna. Questa gelosia, prescienza della rottura inevitabile, quegli occhi spalancati sul figlio che lei vorrà un giorno da uno qualsiasi e che voi, l'amata, non potete dargli, quegli occhi inchiodati sul figlio che verrà. Gli amanti non hanno figli, sì, ma muoiono tutti. Romeo e Giulietta, Tristano e Isotta, Lamazzone e Achille, Sigfrido e Brunilde, quegli amanti latenti, in potenza, predestinati alla separazione, disuniti prima ancora di essere uniti, ma che contano, ma uniti in noi per l'eternità. E altri ancora non hanno tempo per quel futuro che è il figlio, non hanno figli perché non hanno futuro, non hanno che quel presente fatto del loro amore e la loro morte sempre presente. E qui finisco la citazione, ma anche questo concetto entra nelle ruralizzazioni, no? Certo. E nelle categorie a cui facevamo cenno in precedenza. E alimentano un immaginario di cui la letteratura si è nutrita e si nutre costantemente, no? Qui poi ci sarà la gelosia, ma su questo, sulla sindrome di Ornella, sì, abbiamo già fatto una trasmissione. Comunque, nella lettera alla Mazzone, l'autrice cita appunto la tragedia di Shakespeare, anche la mitologia greca, l'epica medievale, no? I Nibelunghi, il ciclo di Tristano e Isotta, eccetera. Tutte relazioni in cui appunto la passione amorosa, non essendo normalizzata in un matrimonio e quindi destinata alla procreazione in seno alla famiglia, non può avere futuro. deve finire e gli amanti morire. Però se gli amori eterosessuali sono destinati a soccombere se non si normalizzano, come può toccare una sorte diversa a quelli omosessuali e lesbici non si normalizzeranno mai in questo senso, non si normalizzeranno, anche perché c'è una scelta specifica da questo punto di vista. E in effetti in questo caso la letteratura funziona nella stessa maniera, nel senso che li fa morire quasi tutte, e anche quella ipercontemporanea, no? Per citare qualcosa che magari le nostre carissime ascoltatrici potrebbero aver sentito. Pensiamo a Stella e Leonora, la coppia protagonista del romanzo Benzina del 94 di Elena Stancanelli, che si fanno esplodere insieme al distributore perché non riescono ad andare da nessuna parte, letteralmente rinchiuse nel raccordo che non le vuole normalizzare, appunto. O alla giornalista Freeland del Noir, Mentre la mia bella dorme, della Campo, che appunto è costretta ad indagare sull'apparente suicidio della propria donna. Quindi, diciamoci la verità, nella letteratura non c'è destino, speriamo di riuscirne a costruire una noi. Certo, io però a questo punto devo fare una considerazione che mi viene proprio dallo stomaco, dalla testa, mi esce fuori diciamo spontaneamente, no? Che è legata a quanto dicevamo all'inizio di questa trasmissione, cioè che come e quanto alcuni concetti siano stati poi trasmessi di generazione in generazione e quanto questi concetti abbiano arricchito il dibattito all'interno della comunità lesbica. Ripensando a quanto detto fino a qui, alle impostazioni del concetto di amore emerso nella lettura di questo libro, ma anche tenendo bene in mente quanto mi hai detto tu in uno degli incontri che abbiamo avuto e che io assolutamente accetto come buono, ci mancherebbe, cioè che è probabile che io sia saldamente legata ad un egemone modello occidentale, no? Però nonostante questo a me viene da dire che oggi per una parte del movimento la visibilità delle lesbiche passa attraverso l'adesione ad un modello. Cioè, secondo il mio modesto parere, ed è proprio secondo il mio modesto parere, questa pratica non genera altro che il consolidamento del fatto che comunque la struttura portante della società non si può mettere minimamente in discussione. Cioè, mi viene da dire che con questa operazione tu, lesbica, arrivi ad esistere solo se vai ad aderire ad un concetto di visibilità che non ti appartiene e cominci ad esistere nel momento in cui ti manifesti per quella che non sei. Mi spiego meglio. Tu magari come lesbica non ti dichiari, rimani nell'ombra, vivi nel perimetro sicuro della tua casa privata e non fai niente altro, ti vivi la tua sessualità di nascosto, però poi chiedi il matrimonio perché individui nella possibilità di sposarti la legittimazione ad essere ciò che sei. A me sembra quasi un paradosso, no? Ed è un modo apparente per aggirare la normalità, attuando una normalizzazione sul piano dell'immaginario. Allora, sicuramente il desiderio di procreazione esiste ed è lecito, così come il matrimonio può e deve continuare ad essere riconosciuto come assolutamente legittimo, però quello che io continuo a non capire è come si possano inquadrare questi due aspetti come gli elementi in grado di scardinare l'ordine dato. A me viene da pensare esattamente il contrario. Cioè, sto vaneggiando o c'è un fondamento a queste cose che sto dicendo? È una domanda difficilissima, però di rispondere sono fuori dall'autrice, ma in generale, ma noi abbiamo detto che avremmo fatto delle considerazioni rispecchiando. Esatto. Allora, io credo che il problema si può dividere in due ordini differenti. Il primo è che in effetti noi siamo, non lo dicevo a te ma lo dicevo a noi, siamo dentro un modello occidentale molto forte che abbiamo introiettato. In questo modello occidentale, che poi è la base del nostro sistema di conoscenza, tu conosci solo ciò che riesci ad assimilare le tue categorie. Quindi io non posso conoscere l'altro da me, noi in Occidente, perché l'Oriente ci riesce benissimo, se non lo trasformo in un altro me. A quel punto riesco a conoscerlo. Allora, a questo punto, che cosa vuol dire? Che per conoscere ciò che eccede, devo riportarlo ai ruoli di cui io potrei essere parte, no? Certo. Allora, è evidente che se non si scardina questo, cioè se non si accetta che si possa non solo pensare un'altra ruralizzazione, perché sarebbe lo stesso meccanismo, ma si possa pensare all'altro e all'altra nella sua differenza, è evidente che si rimane sempre l'invisibilità. L'altra questione è proprio questa, quella della visibilità. Ovviamente se io conosco solo ciò che assimilo, ciò che non assimilo non lo vedo, no? Certo. E quindi la fatica di chi non rientra nei ruoli di, non dico rendersi visibile, ma dire io ci sono, è anche a prescindere dai ruoli. A prescindere dai ruoli, sta proprio nel fatto che non aderisco ai ruoli. Allora, che cosa preferisco? Preferisco aderire a un ruolo, cioè dire ma io voglio comunque una famiglia, no? Certo. Perché questo è già riconoscibile, è qualcosa su cui, di cui posso parlare, posso essere capita, perché è un modo per assimilarmi, naturalmente. Naturalmente, come abbiamo visto, non funziona per niente, perché anzi quello che si dice è che la nostra idea di famiglia attacca quella di famiglia, certo, appunto perché non ruolizza in quel modo. Però il discorso probabilmente è molto più difficile e molto più profondo, cioè bisognerebbe essere in grado di pensare a sé e alla propria visibilità e visualizzazione agli altri, perché certo, ovviamente deve essere una cosa reciproca, perché certo, posso essere bellissimo come se non mi vedono. Adriana Cavarero è ciò che ci narra e quindi ci fa esistere, no? Anche la visione dell'altro. E bisognerebbe essere in grado di di ricominciare a ragionare su un nuovo modo di pensare il mondo che c'è intorno. È per questo che è veramente rivoluzionario una lesbica, certo, no? Perché pone una lesbica, pone questa questione di fondo che non è una questione, tant'è che tu lo sai bene, ne parlavamo proprio quando io ti ho avanzato questa cosa, che anche se due donne vivono insieme senza dichiararsi, comunque lo sguardo dell'altro tende a dire sono due sorelle, esatto, forse due cugine. Cioè due amiche fanno un pochino di famiglia, sai, adesso con le questioni economiche magari vivono insieme per risparmiare, siamo in crisi. Certo. Comunque devi essere dentro un ruolo. Devi essere normata. Allora, noi scardiniamo i ruoli adesso, esatto, in questo momento. E purtroppo bisogna dire che anche il desiderio di maternità, quando c'è, è legittimo, assolutamente, per carità, noi assolutamente rispettiamo tutte, sì, le differenze, però molto spesso è solo un desiderio di dire anche noi possiamo formare una famiglia che progredi, se non, cioè se faccio un figlio sono quasi normale, insomma. Sono quasi normale. Il problema è che è quel quasi normale che bisogna quel quasi normale che ci rovina, diciamo. Senti, io vedo che abbiamo parlato tantissimo, metterei una canzone per, certamente, fare un minimo di stacchetto, ed è una canzone che a me piace tantissimo, che ho scoperto pochissimo tempo fa. Questa cantante si chiama Paola Molgora e la canzone si intitola La Luna di Madrid. Prendimi, falla restare qui, la sera che sarà così bella come solo la tristezza sa, come la luna di Madrid. Non so perché io ti dirò dell'intimo mio sentirti, dell'attimo in cui confondi anche le nuvole di passaggio. Ti dirò dell'intimo mio venire tra mille ricami di perline. Falla restare qui, la sera che sarà così dolce come solo la sangria sa, come la luna di Madrid. Dell'attimo in cui confondi luce, illuminami. Con gli occhi suoi prendimi, falla restare qui. La sera sarà così dolce con me, dolce come la luna. Allora, proprio brevemente sul finale, vi vorremmo invitare al Festival Lesbiche Fuori Salone che si svolge a Roma dal 31 maggio al 7 giugno nell'ambito delle iniziative dell'Onda Pride. Appunto, il Pride ci sarà il 7 giugno, sabato. Diciamo che le Lesbiche Fuori Salone generalmente è stata fatta sempre a Milano, invece l'hanno trasportata qui. C'è stata già una prima serata sabato che è stata interessantissima, tenuta curata da Immaginaria, e sono stati proiettati dei film molto molto molto interessanti. Sì, sì, anche molto partecipato, piena di donne. Piena, sì. Grande successo, sì, sabato. Grande successo. E quindi vi invitiamo domani, 4 giugno, alle ore 17:30. Io la vita, io la muerte. Anche spagnolo. Vedi, sappiamo, poliglotte siamo. E passioni, vita e arte di Frida Kahlo, una conferenza di Alessia Muroni che si svolgerà alla libreria Feltrinelli di Galleria Colonna. Ingresso libero, quindi domani 4 giugno 17:30, poi venerdì 6 giugno ore 18:30 il Rennudo, esperimento aperto di identità e generi mutanti, performance, installazioni, video art, style station, aperitivo e DJ set alla Casa Internazionale delle Donne. Poi sabato 7 giugno alle ore 10:15 il primo gruppo, alle 11:40 il secondo gruppo, la mostra di Frida Kahlo alle scuderie del Quirinale, sempre guidata appunto da Alessia Muroni. E poi sabato 7 giugno alle ore 19:30 Tango Femme e libere incursioni di ballo all'Even, è un evento solo donne e c'è un ingresso a pagamento. Poi sabato 7 giugno dalle 10 alle 14 e domenica 8 giugno dalle 11 alle 18 Drag King Workshop, evento aperto solo alle donne che si terrà alla Casa Internazionale delle Donne, appunto. Per ogni informazione andate sul sito e su Facebook, cercate Fuori Salone delle Lesbiche e avrete tutte il programma dettagliato. Il programma più dettagliato, appunto. Certo, va bene. Noi purtroppo continueremo a oltranza, ma il tempo ci abbiamo sforato alla grande, proprio rubato del tempo alla radio che ci ha gentilmente concesso di protrarre la nostra trasmissione, però a questo punto vi dobbiamo proprio salutare. Ringraziamo Monica di essere stata con noi. Grazie a voi dell'ospitalità e a tutte dell'ascolto. E la nostra prossima trasmissione andrà in onda fra 15 giorni, mi sembra, sì. No? Mi sembra, sì, sì, perché facciamo sì, il primo e il terzo martedì del mese, questo è il primo, quindi il terzo martedì del mese andrà in onda la nostra prossima trasmissione. Buon proseguimento di ascolto su questi liberi microfoni di Radio Onda Rossa e a tutte un buon proseguimento. Ciao. Ciao, buonasera. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on.